ad alta voce. Sandro Lombardi legge Gli occhiali d'oro di Giorgio Bassani. Rividi fatigati. Fu per istrada di notte, una umida, nebbiosa notte del novembre successivo, dopo i morti. Uscivo dal postribolo di via Bonporto e sentendomi addosso i panni impregnati del solito nauseante odore, indugiavo lì, davanti alla soglia, senza risolvermi a rincassare immediatamente e col desiderio di raggiungere i bastioni non lontani in cerca di un po' d'aria libera. Il silenzio attorno era perfetto. Dall'interno del postribolo, alle mie spalle, filtrava la stanca conversazione di tre voci, due maschili e una femminile. Discorrevano di sport, di calcio. I due uomini deploravano che la squadra dell'Unione Sportiva Estense, che negli anni del primo dopoguerra era stata una gran squadra, una delle più forti dell'Italia settentrionale, nel 23 anzi era andata a un pelo dal vincere addirittura il campionato di prima divisione, le sarebbe bastato pareggiare l'ultima partita in casa della Pro Vercelli, adesso, decadendo sempre più, fosse ridotta in Serie C, costretta a lottare ogni anno per rimanerci. Ah, gli anni del centro mediano Condorelli, dei due Banfi, Beppe e Ilario, quelli del grande Bausi, quelli sì che erano stati anni. La donna interloquiva di rado, con frasi del genere di questa: andate là, che a voi ferraresi vi piace troppo far l'amore. Oppure: ma non è tanto per l'andare su in camera, è la gran flanella che fate sempre che vi rovina. Gli altri due, a udirla, tacevano per un attimo, come se pensassero, poi riattaccavano col medesimo argomento. Dovevano essere uomini anziani, sui 45-50, vecchi fumatori. La donna comunque non era ferrarese. Veneta, forse friulana. Adagio, inciampando sui ciottoli aguzzi del vicolo, un passo pesante si avvicinava. «Ma si può sapere cosa vuoi? Hai fame, eh?» La nebbia era così fitta che udii la voce di Fatigati prima ancora di vedere lui. «Stupida, sporcacciona che non sei altro», continuava egli in un tono lagnoso, grondante di tenerezza manierata. «Non ho da darti un bel niente, lo sai?» «Con chi stava parlando?» Apparve, infine. Alonata dalla luce gialla dell'unico lampione stradale, la sua grossa sagoma si profilò ad un tratto nella nebbia. Egli avanzava lentamente, un po' piegato sul fianco, sempre discorrendo, rivolto a un cane, come mi accorsi subito. Si fermò a qualche metro da me. «E allora? Vuoi lasciarmi in pace, sì o no?» Fissava la bestia negli occhi, alzando l'indice in atto di minaccia. E la bestia, una cagna bastarda, bianca a chiazze marroni, il prodotto di un incrocio tra un bracco e un fox terrier, probabilmente, gli ricambiava dal basso, scodinzolando disperata, uno sguardo umido, trepidante. Si trascinava intanto sui ciottoli, verso i piedi del dottore. Tra un momento si sarebbe rovesciata sul dorso, pancia e zampe all'aria, completamente alla sua mercé. «Buonasera». Staccò gli occhi da quelli del cane e mi guardò. «Come va?» disse, ravvisandomi immediatamente. «Sta bene?» Ci stringemmo la mano. Eravamo uno di fronte all'altro, davanti all'uscio chiodato del bordello. Come era invecchiato, mio Dio! Le guance cascanti, offuscate da una barba ispida e grigia, lo facevano sembrare un uomo di 60 anni. Dalle palpebre arrossate e cispose vedevo inoltre che era stanco, che dormiva poco. Eppure lo sguardo dietro le lenti era ancora vivo, alacre. «È dimagrito anche lei, sa? Ma le dona, oh se le dona, la rende più uomo», diceva. «Vede, certe volte nella vita bastano pochi mesi. Contano di più pochi mesi alle volte che interi anni. La porticina chiodata si aprì e ne uscirono 4 o 5 giovanotti, tipi dei sobborghi, se non addirittura di campagna. Sostarono un momento in circolo ad accendere le sigarette. Uno si accostò al muro di fianco all'uscio e cominciò a orinare. Tutti intanto, compreso l'ultimo, ci sbirciavano con strana insistenza. Ma non avevano ragione, poi? Che cosa facevamo, quel vecchio signore e io, lì, a quell'ora? Passando sotto le gambe aperte del giovanotto fermo davanti al muro, un piccolo rigagnolo serpeggiante avanzò rapido in discesa verso il centro del vicolo. La cagna ne fu attratta. Cautamente si avvicinò ad annusare. «Sarà meglio che ce ne andiamo», bisbigliò Fatigati con un leggero tremito nella voce. Ci allontanammo in silenzio, mentre alle nostre spalle il vicolo risuonava improvvisamente di parolacce e di risa. Per un attimo temetti che la piccola banda ci venisse dietro, ma ecco via Ripagrande, per fortuna, dove la nebbia sembrava anche più fitta. Bastò attraversare la strada, salire sul marciapiede opposto e subito fui certo che avevamo fatto perdere le nostre tracce. Camminammo affiancati a passo più lento verso il montagnone. Mezzanotte era suonata da un pezzo e per le strade non si incontrava nessuno. File e file di imposte chiuse e cieche, porte sprangate e, a intervalli, le luci quasi subacquee dei lampioni. Si era fatto così tardi che forse eravamo rimasti noi due soli, io e Fatigati, in giro a quell'ora per la città. Egli mi parlava accorato, sommesso. Mi raccontava le sue disgrazie. Lo avevano esonerato dall'ospedale con un pretesto qualsiasi. Oltre a ciò, anche allo studio di via Gorgadello c'erano pomeriggi interi che non si presentava più un solo paziente. Lui non aveva nessuno al mondo, d'accordo, preoccupazioni immediate dal punto di vista finanziario ancora non le aveva. Ma era possibile continuare a vivere a lungo così, nella solitudine più assoluta, circondato dall'ostilità generale? Presto sarebbe venuto il momento che avrebbe dovuto licenziare l'infermiera, ridursi in un ambulatorio più piccolo, cominciare a vendere i quadri. Tanto valeva andare via subito, tentare di trasferirsi altrove. «Perché non lo fa?» «Dice bene lei», sospirò. «Ma alla mia età. E poi, anche se avessi il coraggio e la forza di decidermi a un passo simile, crede che servirebbe a qualcosa?» Arrivati nei pressi del montagnone, sentimmo dietro di noi un leggero zampettio. Ci voltammo. Era la cagna bastarda di poco prima che sopraggiungeva trafelata. Si arrestò, felice di averci rintracciati a fiuto in quel mare di nebbia, e buttando indietro sul collo le lunghe e tenere orecchie, guaendo e scodinzolando festosa, già rinnovava in onore di Fatigati soprattutto le sue patetiche proteste di devozione. «È sua?» chiesi. «Ma che? L'ho trovata questa sera, dalle parti dell'acquedotto. Le ho fatto una carezza, ma mi ha preso troppo sul serio. Che diamine! Da allora non sono più riuscito a levarmela di torno». Notai che aveva le mammelle grosse e pendenti, gonfie di latte. «Ai piccoli, vede?» «È vero», esclamò Fatigati. «È proprio vero». E poi, rivolto alla cagna, «Lazzarona, dove hai lasciato i tuoi bambini? Non ti vergogni ad andare in giro per le strade a quell'ora, madre snaturata?» Di nuovo la cagna si appiattì, ventre a terra, a qualche centimetro dalle scarpe di Fatigati. «Picchiami, uccidimi pure, se vuoi», sembrava voler dire. «È giusto, e poi mi piace». Il dottore si chinò a carezzarla sul capo. In preda ad un accesso di vera passione, la bestia non finiva più di leccargli la mano. Tentò perfino di arrivargli al viso con un fulmineo bacio a tradimento. «Calma, sta calma», badava a ripetere fatigati. Sempre seguiti o preceduti dalla cagna, riprendemmo infine la nostra passeggiata. Ci stavamo ormai avvicinando a casa mia. Se ci precedeva, la cagna si fermava a ogni incrocio, come timorosa di perderci un'altra volta. «La guardi», diceva intanto fatigati, indicandomela. «Forse bisognerebbe essere così, sapere accettare la propria natura. Ma d'altra parte, come si fa? È possibile pagare un prezzo simile? Nell'uomo c'è molto della bestia, eppure può l'uomo arrendersi, ammettere di essere una bestia e soltanto una bestia?» Scoppiai in una gran risata. «Oh no», dissi. «Sarebbe come dire, può un italiano, un cittadino italiano, ammettere di essere un ebreo e soltanto un ebreo?» Mi guardò umiliato. «Comprendo cosa vuol dire», disse poi. «In questi giorni, mi creda, ho pensato tante volte a lei e ai suoi, però mi permetta di dirglielo. Se fossi in lei, che cosa dovrei fare?» Lo interruppi impetuosamente. «Accettare di essere quello che sono? O meglio, adattarmi ad essere quello che gli altri vogliono che io sia?» «Non so perché non dovrebbe», ribatté dolcemente. «Caro amico, se essere quello che è la rende tanto più umano, non sarebbe qui in mia compagnia altrimenti. Perché rifiuta? Perché si ribella? Il mio caso è differente, esattamente opposto al suo. Dopo ciò che è accaduto l'estate scorsa, non mi riesce più di tollerarmi. Non posso più, non debbo. Ci crede se le dico che certe volte non sopporto di farmi la barba davanti allo specchio? Potessi almeno vestirmi in un altro modo. Ma mi vede lei senza questo cappello, questo pastrano, questi occhiali da tipo per bene? E d'altra parte, così, mi sento talmente ridicolo, grottesco, assurdo. No. Undere dire negant è proprio il caso di dirlo. Non c'è più niente da fare per me, senta.» Pensavo a Delillier e a Fadigati, uno carnefice, l'altro vittima. La vittima perdonava al solito, consentiva al carnefice. Quanto a me, tuttavia, Fadigati si illudeva. In quel momento ero certo che non sarei mai riuscito a rispondere all'odio altro che con l'odio. Appena raggiunto il portone di casa, tirai fuori di tasca la chiave e aprii. La cagna mise il capo nella fessura, come per entrare. «Via!» gridai. «Va via!» La bestiola guaì, spaventata, rifugiandosi presso le gambe del suo amico. «Buonanotte», dissi. «È tardi. Devo proprio salire.» Ricambiò la mia stretta di mano con grande effusione. «Buonanotte. Stia bene. E tante cose anche per la sua famiglia», ripeté più volte. Varcai la soglia. E poiché lui, sempre sorridendo e levando il braccio in segno di saluto, non si decideva ad andarsene, sedutasi sul marciapiede, anche la cagna mi guardava di sotto in su con aria interrogativa, cominciai a chiudere il portone. «Mi telefona?» chiesi leggermente, prima di accostare del tutto i battenti. «Ma», fece sorridendo un po' misterioso, attraverso l'ultimo spiraglio, «chi vivrà, vedrà.» Mi telefonò di lì a due giorni, tuttavia. Eravamo a tavola. Fu mia madre, che ancora non si era seduta, a rispondere per prima all'apparecchio. «È per te», disse, sporgendo il capo attraverso l'uscio dello sgabuzzino riservato al telefono. «Chi è?» Venne verso la tavola, stringendosi nelle spalle, desolata di non aver domandato, al solito, il nome della persona. «È un signore. Non sono riuscita a capire chi sia.» «Bastava che glielo chiedessi», sbuffai alzandomi. Ci vuole così poco? Ma un segreto batticuore mi aveva già avvertito di chi potesse trattarsi. Mi chiusi dentro lo sgabuzzino. Chi parla? Pronti? Sono io, Fadigati, disse. Mi dispiace di aver disturbato. Erano ancora a tavola? Fui sorpreso dalla sua voce. Nel ricevitore suonava più acuta. Anche l'accento veneto risaltava maggiormente. No, no, aspetti un momento, scusi. Aprì la porta che metteva nella stanza da pranzo, sporsi il capo a mia volta e senza dire chi fosse all'apparecchio, ero arrivato al punto di non fidarmi nemmeno dei miei genitori, pregai mia madre di coprirmi con un piatto la scodella della minestra. Fanny fu svelta a prevenirla. Stupito, immediatamente geloso, mio padre mi guardò. Alzò il mento come per chiedere «Che cosa succede?» Ma già ero tornato a rinchiudermi nello sgabuzzino. «Dica pure». «Oh, niente», ridacchiò il dottore dall'altra parte del filo. «Mi aveva detto di telefonarle e allora...» «L'ho disturbato, eh? Sia sincero». «Ma no, anzi», protestai. «Mi ha fatto piacere. Vuole che ci vediamo?» Ebbi una leggera esitazione che certo non gli sfuggì, poi aggiunsi «Senta, perché non viene a trovarci? Credo che il papà sarebbe contentissimo di vederla. Vuole?» «No, grazie. Lei è veramente gentile, lei sì che è gentile. No, magari in seguito, con vera gioia, sempre che sul serio, con grande gioia». Non sapevo più cosa dire. Dopo una pausa piuttosto lunga, comunque, durante la quale non mi giunse attraverso il ricevitore altro che il suo grosso respiro di cardiaco, fu lui a ricominciare a parlare. «A proposito, il cane mi ha accompagnato poi fino a casa, sa?» Sul momento non mi raccapezzai. «Quale cane?» «Ma sì, la cagna dell'altra sera, la madre snaturata», rise. «Ah, già, la cagna bastarda. Non solo mi ha accompagnato fino a casa», proseguì, «ma quando siamo arrivati qui in via Gorgadello, davanti alla porta di strada, non c'è stato verso. Ha voluto salire assolutamente di sopra. Aveva fame, poveraccia. Ho racimolato dalla dispensa un fondo di salame, del pane duro, delle croste di formaggio. Doveva vedere con che appetito ha mandato giù tutto quanto. Ma aspetti, non ho finito. Dopo, si immagini, ho dovuto portarmela in camera». «Come? Addirittura a letto?» «C'è mancato poco. Ci siamo sistemati così. Io a letto e lei per terra, in un angolo della stanza. Ogni tanto si svegliava, si metteva a piagnucolare con un filo di voce, andava a grattare alla porta. Cucciala!» le gridavo nel buio. Per un po' stava buona e tranquilla, un quarto d'ora, mezz'ora, ma poi ricominciava. Una notte d'inferno, gliel'assicuro. Se voleva andare via, perché non l'ha lasciata andare? Cosa vuole? La pigrizia. Mi seccava alzarmi, accompagnarla fin giù, sa come succede. Appena fatto chiaro, ad ogni modo, mi sono affrettato ad accontentarla. Mi sono vestito e l'ho accompagnata fuori. Già, l'ho accompagnata io, questa volta. Mi era venuto in mente che non sapesse ritrovare la via di casa. L'aveva incontrata dalle parti dell'acquedotto, se non erro. Precisamente. Difatti, proprio in cima a via Garibaldi, all'angolo che via Garibaldi fa con la spianata, d'un tratto sento chiamare «Vampa!». Era un garzone di fornaio, un ragazzetto bruno in bicicletta. La cagna gli si butta addosso, insomma, non puoi immaginare le feste che si sono fatti l'uno con l'altro. E poi via, insieme, lui in bicicletta e lei dietro. «Le vede, le donne?» scherzai. «È un po' così», sospirò lui. «Era già lontana, stavano quasi per imboccare via Piangipane e si è voltata a guardarmi, ci crede, come per dire «Scusa se ti pianto, vecchio signore, ma debbo proprio andare con questo ragazzo, abbi pazienza». E rise da solo, niente affatto amareggiato. «Lei però Non può indovinare per quale ragione durante la notte volesse andarsene, soggiunse. Non mi dica che a tenerla sveglia era il pensiero dei piccoli. E invece ha indovinato, guardi, proprio il pensiero dei piccoli. Vuole una prova? In camera mia, nell'angolo dove aveva dormito, ho trovato più tardi una gran pozza di latte. Nel corso della nottata le era venuta la cosiddetta piena del latte. Ecco perché non riusciva a stare quieta e si lamentava. Gli spasimi che deve aver provato li sa soltanto lei, povera bestia. Fadigati parlò ancora della cagna, degli animali in genere e dei loro sentimenti, che sono tanto simili a quelli degli uomini, disse, anche se forse più semplici, più direttamente sottomessi all'imperio della legge naturale. Dal canto mio mi sentivo ormai sulle spine. Preoccupato di non lasciare intendere a mio padre e a mia madre, di certo tutti orecchi, con chi stavo conversando, mi limitavo a rispondere a monosillabi. Speravo anche, in questo modo, di indurlo ad abbreviare, ma niente. Pareva in realtà che non gli riuscisse di staccarsi dall'apparecchio. Era giovedì. Combinammo di vederci il sabato seguente. Lui mi avrebbe telefonato subito dopo pranzo. Se faceva bello, avremmo preso il tram e saremmo andati a Ponte Lagoscuro a vedere il Po. Dopo le ultime piogge, il livello del fiume doveva essersi avvicinato di molto al segnale di guardia. Chissà che spettacolo. Ma poi, finalmente accomiatandosi, addio, caro amico, stia bene, ripeté più volte, commosso. Buona fortuna a lei e ai suoi cari.